È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, per parlare in diretta con la nostra trasmissione. Conoscete i numeri, che vi ripeto: il numero verde 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666 e poi la mail. Ci scrivete sempre in tantissimi, lazanzara@radio24.it. Andiamo a sentire i titoli di alcuni telegiornali alle 18.30 TG2. Ancora silenzio a Udine sulla sorte di Eluana, le sentenze si rispettano, così la famiglia. Il cardinal Bagnasco, presidente dei Vescovi, se morirà, grave ferita per l'Italia. Sergio Zavoli, presidente della nuova commissione di vigilanza, 34 voti a favore, 4 schede bianche, ora subito la scelta dei vertici RAI, dichiara dopo l'elezione. Contro la crisi, ecco gli incentivi per auto ed elettrodomestici, settori strategici per Berlusconi. Prime indiscrezioni sulle misure, forse già venerdì al Consiglio dei Ministri. Si diceva vittima della camorra, viveva sotto scorta, arrestato in Campania Sergio Orsi, il fratello ucciso un anno fa, l'accusa, faceva affari con i clan anche dopo l'agguato. Chirurgia estetica, giro di vite, nuove regole in arrivo, niente se non rifatto per le minorenni, in troppe lo chiedono. È un intervento medico con rischi e controindicazioni. Insomma, il governo si appresta a intervenire sul rifacimento del seno per le minorenni. Intanto è guerra molto dura tra i vertici della CAI e la Lega, anche fatta di piccole provocazioni. Per esempio Colaninno, il presidente di CAI, Roberto Colaninno, che dice: non volo da Malpensa, in un'audizione al Senato. Da Mantova ci metto 5 ore, meglio Francoforte. Andiamo a sentire i titoli di Sky. Il caso di Eluana Englaro spacca le coscienze. In una clinica di Udine la giovane in stato vegetativo da 17 anni si avvia alla morte. 8 domande, 8 risposte per capirne di più. Tra le ultime a vederla, Margherita Coletta, vedova del carabiniere ucciso a Nassiria e mamma di un bimbo morto di leucemia. Ecco il suo racconto di quell'incontro. Resta in carcere il minorenne di Nettuno, accusato di aver picchiato e dato fuoco all'immigrato indiano. Non sono stato io, volevano scaricarmi tutte le colpe, ha ripetuto, ma per il GIP restano i gravi indizi. In corso gli interrogatori dei due complici maggiorenni. Pronti gli aiuti per i settori strategici, in arrivo il bonus per chi acquista l'auto nuova e rottama la vecchia, esenzioni dal bollo per 3 anni, sovvenzioni anche per gli elettrodomestici verdi, botta e risposta a distanza tra Berlusconi e Renato Soro, candidato PD alla regione sarda. La crisi, non ci dormo la notte, Obama spinge sull'economia e blocca i mega stipendi ai manager. Bene, questi i principali titoli di Studio Aperto, naturalmente non era Sky, che sentiremo più avanti nell'edizione delle 19 con i suoi titoli tradizionali, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Io ho un grande rispetto per la posizione di Beppino Englaro, ho grandissimi dubbi su tutta la vicenda. Però non sono d'accordo sul fatto che ci debba essere silenzio, come invocano oggi molti giornali, oltre molti organi di stampa, oltre allo stesso Beppino Englaro, che ha detto bisogna fare calare il sipario, non parlo più, ci vuole il silenzio stampa, lui, il curatore, i suoi avvocati, eccetera eccetera. Perché? Semplicemente perché è stato lo stesso Englaro in tutti questi anni a rendere pubblica la cosa, a cercare i maggiori contatti possibili con la stampa per raccontare come stavano le cose, a suo modo di dire, e perché è stato lo stesso Englaro a mediatizzare la vicenda e a renderla pubblica come secondo lui dovrebbe essere. Dunque, perché adesso non si dovrebbe parlare di questa vicenda? D'altra parte, lo scorso 11 gennaio, non stiamo parlando di 2 anni fa, a cose già fatte, a sentenze già certificate, lo stesso Englaro, pur avendo rifiutato altre interviste, è andato tranquillamente a parlare del libro in uscita sulla vicenda di sua figlia da Fazio. Qui con noi Beppino Englaro. Englaro, buonasera, benvenuto. Grazie, grazie infinite a lei. In realtà il libro è uscito a ottobre, edito da Da Rizzoli, Eluana, La libertà e la vita. Forse insomma, il sottotitolo avrebbe potuto persino essere La libertà è la vita, ma chi lo sa. Mi sembra che questo sia il riassunto in realtà del... Esattamente, proprio, è proprio così, sì. E ne parleremo con lei. Perché per Eluana vita era libertà. E questo era Beppino Englaro, ripeto, l'11 di gennaio. Eppure oggi leggiamo sulla prima pagina dell'Unità: silenzio, l'ultima aggressione a Eluana, pressioni e polemiche dalla destra del Vaticano, l'appello dei genitori e dei medici, ora basta accanimento. La grande menzogna, non è vero che morirà di fame e di sete, non è vero che soffrirà, non è vero che si tratta di omicidio o eutanasia. Naturalmente questa è la discussione in corso, ma è il silenzio quello che colpisce, perché poi l'Unità, ma anche un altro giornale, anche altri giornali, invocano il silenzio e poi all'interno ci sono, credo, 10-12 pagine, forse 6-7, non ricordo bene, sulla vicenda Englaro. Bene, dove andiamo? Torniamo sulla vicenda invece di Rita Bernardini e dei romeni di Guidonia. Perché? Perché c'è un parroco, sentitelo, ha una voce molto forte, molto significativa, di quelle da ascoltare. Un parroco, che è il parroco di Guidonia, che si chiama Don Stefani, il quale ha scritto una lettera al deputato radicale che si è recato in carcere a visitare gli stupratori e sostanzialmente la riassume in questo modo. Visitare dei carcerati, visitare dei delinquenti è un obbligo di coscienza. Non ce lo siamo inventati noi cristiani, ma il Signore ci ha, Gesù ci ha invitati precisamente a fare quest'opera di carità, dicendo: ero carcerato e mi avete visitato. Quindi io non capisco bene questo scandalo che ha suscitato questa visita dell'onorevole a dei delinquenti. Andrea Stefani, parroco di Guidonia, dunque ha inviato una lettera di solidarietà a Rita Bernardini, dove riguarda i romeni arrestati, scrive: a me risulta che questi delinquenti siano stati pestati nella nostra caserma di Guidonia. Naturalmente poi Stefani dovrà spiegare da cosa risulta, in che modo, è vero, non è vero, che prove ha. 800 24 00 24, ha voluto farsi giustizia da solo, il tabaccaio di Milano, per cui è stato chiesto ieri, sono stati chiesti 9 anni di reclusione per omicidio volontario nei confronti del rapinatore che poi è rimasto ucciso, era il 2003, sentite il servizio. Se non è pericolo o una legittima difesa quando uno punta una pistola contro un'altra persona, non so cosa dobbiamo fare. Cioè, quando è legittima difesa? Lo ripetono da anni, padre e figlio fu legittima difesa e adesso rimangono sconvolti davanti alla richiesta del pubblico ministero. 9 anni e 6 mesi per aver reagito alla rapina e ucciso un bandito. E il maggio del 2003 due uomini armati entrano in questa tabaccheria in piazzale Baracca a Milano. Uno picchia Giovanni Petrali, il proprietario, l'altro punta la pistola contro la moglie. Gli rubano l'incasso, 1.300 euro, Petrali però reagisce, estrae la pistola e spara. 7 colpi, 4 dentro, 3 fuori. Colpisce Andrea Solaro una spalla, Alfredo Merlino invece viene colpito al cuore, muore. Il tabaccaio finisce a processo per omicidio volontario ieri, è arrivata la richiesta del pubblico ministero. Fu vendetta, afferma non difesa, gli riconosce ogni attenuante possibile, ma sostiene ha voluto farsi giustizia da solo, quella è prerogativa dello Stato. Abbiamo avuto testimoni, perizie, dove si evince chiaramente come sono andate le cose, quindi non capisco volersi impuntare su delle ricostruzioni che non hanno proprio il minimo di verità. È tornato al suo posto di lavoro quasi subito Giovanni Petrali, di rapine ne aveva già subite anche in passato, parlerà in aula il 12 febbraio, giorno in cui si attende anche la sentenza. Se è colpevole, giustamente, se ne va da San Vittore, se ha sbagliato qualcosa. Ha avuto un comportamento esemplare, cioè non ha detto nulla di più né nulla di meno di quello che è successo. È qualcun altro che probabilmente ha visto qualche altro processo. Naturalmente questo è il giudizio del figlio di Giovanni Petrali. Secondo la ricostruzione del PM, Petrali insultò i rapinatori a terra, nei confronti dei due fece, alzando le mani, un gesto furioso in segno di soddisfazione e vittoria. Secondo il PM, una sconfitta dello Stato è un modo per farsi giustizia da sé. Questo nonostante il fatto che la rapina è stata compiuta con modalità odiose, spintonando, schiaffeggiando e picchiando il tabaccaio. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, voglio chiederti una cosa, cioè, si fa un grande invocare in queste ore di silenzio, addirittura l'Unità questa mattina in prima pagina con il dito sulla bocca, silenzio sulla vicenda Englaro, la Sette, il telegiornale della Sette addirittura ha deciso di non parlarne, discussione tra molte persone, bisogna stare in silenzio, bisogna avere discrezione, eccetera, eccetera. Lo stesso Beppino Englaro invoca il silenzio stampa, dice che non parlerà più. C'è un po' di ipocrisia oppure no? Beh sì, in effetti io sono rimasto abbastanza colpito da queste richieste di silenzio, questo appello a fermare il circo mediatico, perché il circo mediatico si è messo in moto proprio per volontà di Beppino Englaro e non ne do un giudizio di valore. È molto probabile che se così non fosse stato il papà di Eluana non avrebbe ottenuto quello che voleva e che sta per ottenere, cioè che si compiano quelle che lui ritiene essere le vere volontà di Eluana Englaro, cioè di essere, come lui dice, liberata dalla sua condizione di stato vegetativo permanente. Ma una volta messo in moto il circo mediatico, come loro lo chiamano, che ha portato a rendere pubblica e politica la vicenda di Eluana Englaro, non si può a comando farlo interrompere, tanto più che ci sono molte contraddizioni in questo campo. Beppino Englaro ha cominciato la sua vicenda, la sua battaglia con una lettera pubblica a Ciampi, poi ha partecipato a trasmissioni, ha dato interviste, l'ultima nemmeno un mese fa da Fabio Fazio, lo ricorderete, per presentare il suo libro dedicato alla vicenda di Eluana. Ora chiedere il silenzio è un po' tardi, il caso di Eluana è diventato un caso pubblico, un caso politico, un caso che investe la coscienza di ciascuno di noi, non è più soltanto di proprietà di Beppino Englaro, e a questo punto chiedere il silenzio mi sembra un po' troppo tardi, è un fardello che portiamo tutti, tanto più constatato un'altra contraddizione. Sì. Mentre sulla pagina 2 del Corriere l'avvocato della famiglia Englaro chiede il silenzio e minaccia rappresaglie legali contro chi nel circo mediatico viola questo silenzio, il medico che assisterà Eluana nelle sue ultime ore dà interviste a tutto spiano, al TG3, alle telecamere, ai giornali, raccontando nei minimi dettagli il suo viaggio in ambulanza, come ha trovato Eluana, come procederanno le fasi del distacco dei sondini. Mi domando se l'avvocato della famiglia Englaro prenderà provvedimenti legali contro il loro medico, perché certamente il dottor Damonte ha alimentato alla grande il circhio mediatico che loro vorrebbero far tacere. Sì, soprattutto attaccando frontalmente la Chiesa, dicendo che c'è uno scollamento tra quello che decide il Parlamento. Sue personali opinioni, che sono certo. Quelle di un anestesista. Che quindi, no, che sono legittime, certo, sono legittime, ma sono pur sempre quelle di una. Soprattutto arrivano nel momento in cui si chiede il silenzio a tutti, io credo lo si dovrebbe chiedere tanto più a chi in questo momento ha nelle proprie mani questo momento delicatissimo che sono gli ultimi giorni di Eluana Englaro. Se lui è il primo a parlare, se lui è il primo a guardare la telecamera e dire per me Eluana è morta 17 anni fa, vuol dire in pieno far parte del circo mediatico. Anzi, alimentarlo ancora di più, perché effettivamente dire è morta 17 anni fa si va nel fulcro della vicenda, certo, si va nel cuore perché della... Uno si può chiedere se fosse morta 17 anni fa, non si capisce perché ci vuole una clinica, 10 infermieri, 2 medici e 20 giorni per farla uscire dalla vita se fosse veramente già morta. Un'ultima... Ma non è tanto questo il punto, certo, a me colpisce certo. Più la contraddizione sulla questione dell'informazione, che è sempre molto facile accusare, poi però quando serve conviene sempre molto attivare. Sì, infatti bisogna fare un'altra considerazione che credo che tu hai già fatto, però bisogna tornarci sopra, ed è questa: forse senza la stampa, che adesso Beppino Englaro, si è detto con grande rispetto naturalmente di Beppino Englaro, ma non è nemmeno il caso di sottolinearlo, forse senza la stampa, senza i continui interventi, anche ricercati se vogliamo da Beppino Englaro, giustamente, senza l'aiuto dei media non si sarebbe arrivati a quella sentenza, no? Dopo tanti anni certo, in cui le corti avevano rifiutato tutto. Prima di decidere di investire addirittura il Presidente della Repubblica del suo caso personale, quello di sua figlia, Beppino Englaro aveva avuto molti no dai tribunali che aveva interpellato, ed è soltanto dopo questi anni di battaglia pubblica sostenuta dai partiti, dai radicali, da chi simpatizza per lui, da gran parte della platea politica, soltanto in questi anni di sua personale esposizione, di sua battaglia politica e mediatica, ha ottenuto quella famosa sentenza della Cassazione da cui deriva poi il fatto che Eluana ormai è giorni contati. Ecco, tutto qui. Se non ci fosse stata questa spettacolarizzazione, probabilmente Beppino Englaro non avrebbe ottenuto quello che voleva. Lui ritiene di aver ottenuto una grande conquista di diritto e di civiltà, quindi dovrebbe ringraziare il circolo mediatico invece di accusarlo, come dire, di profanare il suo dolore, che noi tutti invece rispettiamo, ma in realtà il circo mediatico ha seguito le sue esigenze e io non sono d'accordo, diciamo, rispetto al fatto che il risultato sia positivo, ma dal punto di vista di Beppino Englaro lui ha ottenuto un risultato positivo, ha ottenuto quello che voleva, lasciare libera sua figlia. Grazie a Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it. 18:51 è certamente un grande argomento, perché secondo me le telecamere che sono di fronte, numerosissime, alla clinica La Quiete di Udine, magari in questo momento un po' fastidiose, certamente fastidiose per Beppino Englaro, però sono il frutto dell'azione di Beppino Englaro in tutti questi anni. Giovanni da Pisa, buonasera. Buonasera, io sul silenzio richiesto non mi scandalizzo, mi irrito perché nello stile alla fine anche dei radicali a far così, però non era questo. Io volevo mandare tre frecce: una al dottor Marino ieri sera a Porta a Porta, una al dottor Viale, che sono entrambi colleghi, e una anche a lei. Al dottor Marino dico che il dottor Marino, che dice che nell'alimentazione di Luana non c'è nulla di naturale, ricorda continuamente con paragoni vergognosi che Luana non prende il panino al prosciutto, e dico che cosa c'è, caro collega Marino, di naturale nell'andarsene imbottiti di ansiolitici, di ipnotici, che si usano per non provare quel dolore che è il rimedio stesso a generare, cioè ci si trova a lenire gli effetti stessi di ciò che ci si appronta a fare. Al dottor Viale, che ieri era tutto impegnato su Sky TG24 a dire che non è niente, vedete che in una quindicina di giorni passa tutto. Allora guardate, visto che il dottor Viale è impegnato a narcotizzare le coscienze, come fa mai da sempre, a raccontare la favoletta per cui Luana morirà di arresto cardiaco, sì, è ovvio che tutti muoiono di arresto cardiaco. Cosa vuole dire il dottor Viale, Giovanni? Andiamo al solito. Beh, allora, Luana avrà schianti e ulcere su ogni mucosa, da quella della bocca all'intestino. La pelle diventa fragile, si rompe, si staccano le dunque non è vero che non ci sarà sofferenza, quello che si scrive su alcuni giornali. Ascolti, la gonfiano di antidolorifici. Allora, d'accordo, lei, abbiamo capito. L'appunto invece nei miei confronti qual è? Così andiamo. No, non è proprio un appunto, è una domanda. Sì. E a questo spero che mi risponda con libertà. La volontà ricostruita dalla sentenza, sì, no, della Cassazione, è davvero un arbitrio garantista? È veramente garantista? Guardi, Giovanni, io ripeto, la ringrazio di questa telefonata, ho moltissimi dubbi su questa volontà ricostruita, ma su tutta la vicenda. Oggi, per fortuna, i miei dubbi sono condivisi da un grande filosofo intervistato dal Corriere della Sera, non mi ricordo chi esattamente. In questa vicenda non so prendere posizione. Ebbene, io non so prendere posizione, anche se penso che la ricostruzione della volontà dopo tanti anni di una ragazza 17enne sia molto complicata. Tiziano dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera a voi, complicatissimo chiamarvi. Vabbè. Era Sebastiano Vassalli. Comunque, Tiziano, provincia di Varese, dica. Sì, allora, torno su argomenti un po' più terra a terra, non voglio dire la mia opinione su nulla, vorrei più che altro fare una domanda a voi giornalisti. Riguardo gli incentivi, la proposta sugli incentivi sul mondo... Sì, l'altro grande tema di oggi, certo. Esatto. Le anticipazioni dell'ANSA di prima, le cose che ha detto Berlusconi, esatto, eccetera, eccetera. Però è una proposta... Speriamo che rimanga. Nelle vostre trasmissioni precedenti avete spiegato come mai non è possibile intervenire su una detassazione direttamente in busta paga. Vorrei capire però perché non si può scegliere una seconda strada, ovvero diminuire l'IVA sulle automobili. Perché così facendo, con la rottamazione, ho sentito che lo Stato perderebbe un terzo di quello che investe, perché due terzi rientrerebbero col gettito dell'IVA. Perché non detassare direttamente l'IVA? Guarda, Tiziano, lei però abbia pazienza, mi fa una domanda molto specifica, molto tecnica, qui in questo momento non so rispondere. Primo, perché non abbiamo ancora sotto mano il provvedimento definitivo, ci sono delle anticipazioni. Secondo, perché magari non sta a me scendere così nel dettaglio dei vantaggi e degli svantaggi. Lei dice perché non c'è direttamente un intervento sull'IVA anziché sulla rottamazione. Questa mi sembra la sua questione, non la sua domanda, Tiziano. Ok. No, dico, questa mi sembra la sua domanda. No, aspettiamo di conoscere il testo definitivo e poi potremo farci un'idea dei vantaggi e degli svantaggi secondo i diversi punti di vista, naturalmente. La ringrazio. 800 24 00 24. Allora, l'elezione di Sergio Zavoli, un'altra delle notizie della giornata, presidente della commissione di vigilanza RAI, finalmente, dopo tutto, finalmente, secondo i punti di vista, naturalmente, dopo infinita vicenda Villari. La questione è questa, certo fa un po' pensare: l'età è importante oppure no? Perché insomma ci sono persone in sella, diciamo così, da tantissimo tempo. Premetto subito, secondo me l'età non è importante. Certo fa impressione sapere che il presidente della commissione di vigilanza RAI era lo stesso personaggio, grandissimo personaggio, che nel 1960 raccontava l'apertura delle Olimpiadi di Roma. Il cerimoniale ha cadenze perfette, rispetta rigorosamente tutti i tempi previsti. È sul punto di parlare Giovanni Gronchi. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Andiamo a sentire i titoli dei telegiornali TG3. Vertice di governo, Berlusconi annuncia misure anticrisi, 1000 euro per rottamare l'auto, niente bollo per 3 anni, bonus per gli elettrodomestici. Di Pietro, Napolitano, non firmi il provvedimento sulle intercettazioni, è incostituzionale, PD sia al confronto sulla giustizia. Il presunto archivio segreto delle intercettazioni telefoniche, indagato Gioacchino Genchi, ex consulente del PM Luigi De Magistris. Sergio Zavoli eletto alla guida della commissione di vigilanza RAI, PD e PDL, un presidente di garanzia, l'Italia dei Valori non partecipa alla votazione. Il Vaticano, Williamson deve abiurare le sue tesi che negano la Shoah, il Papa non le conosceva quando ha annullato la scomunica. Truffe alla sanità, arresti domiciliari per l'imprenditore romano Giampaolo Angelucci, chiesta l'autorizzazione a procedere per il padre, senatore del PDL. Dal castello della Colombaia a Trapani alla libreria Bocca di Milano, tanti luoghi del cuore da salvare secondo il censimento del FAI. Erano i titoli del TG3. Quando ho letto questa frase pronunciata oggi da un signore, vi invito a immaginare chi possa essere. Dovrebbe essere un gioco, ma le frasi sono talmente gravi che poi ho deciso di non fare più questo gioco. Il personaggio è un senatore della Lega Nord che si chiama Pier Giorgio Stiffoni. Anche altre volte si è espresso con termini molto forti. Ripeto, quando ho letto questa frase volevo fare un gioco, poi mi sono accorto che era troppo pesante. Le frasi sono queste: l'etnia romena, se rappresentata da questi personaggi specializzati in stupri, non è degna di restare in una Europa unita. E fin qui, diciamo, più o meno ci potremmo essere nella polemica politica, naturalmente. Lui dice, insomma, i romeni non sono degni di stare in Europa perché ci sono tanti stupratori in Italia. Anzi, forse non ci siamo nemmeno in questo caso. Poi però ha aggiunto Stiffoni, cosa ancora più grave: se un extraterrestre scendesse sulla Terra e mi chiedesse qual è la specializzazione dei rumeni, gli risponderei lo stupro. Dunque, secondo Stiffoni, i rumeni sono specializzati in stupri. Andiamo a sentire Sky. Piano anticrisi del governo, pronti sconti e incentivi, 1000 euro per rottamare l'auto. Il Vaticano, al vescovo negazionista, abiuri le sue tesi, il Papa non sapeva. Eluana, Sacconi chiede di valutare la clinica, Bagnasco accusa l'Italia verso l'eutanasia. Intercettazioni, Genchi indagato a Roma, appello di Di Pietro a Napolitano, non firmi la legge. La verità di uno degli intercettati a Sky TG24, per Giancarlo Pittelli è tutta una montatura. Sergio Zavoli eletto al primo voto nuovo presidente della commissione di vigilanza RAI. Truffa alla sanità, arresti per Angelucci, re delle cliniche private ed editore di Libero e Riformista. Ecomafia in Campania, in manette 15 del grande Casalesi, Bertolaso indagato per l'emergenza. Obama dichiara guerra ai manager, ha fissato un tetto sui guadagni, pressing per approvare il piano. Coppa Italia, sfida a Torino tra Juventus e Napoli per raggiungere la semifinale. Bene, 19:19, 800 24 00 24. Dal punto di vista dei titoli e delle notizie è certamente la giornata degli indagati e degli arrestati. Avete sentito Bertolaso da una parte e poi la famiglia Angelucci, editori, persone molto in vista, addirittura uno è senatore o deputato, adesso non ricordo bene, del Partito della Libertà, editore di Libero e del Riformista. Ma andiamo dove? A sentire Colaninno e la sua provocazione su Malpensa. Colaninno non è un uomo qualunque che dice preferisco andare, non so, a Verona, oppure preferisco andare a Parigi o a Francoforte e Malpensa è troppo lontana. È il grande capo della compagnia aerea italiana, cioè della nuova Alitalia. Sentitelo. Io sono un affezionato di Francoforte, perché non sono mai io a Malpensa, non sono mai venuto. Perché faccio Verona-Francoforte, prendo l'Air Dolomiti, passo lì e siamo a posto. E tutti facciamo così, e siamo tutti contenti. Perché? Perché finalmente possiamo andare a Francoforte a volare. E perché Francoforte, tutto sommato, è più brava, è più bella, tutto quello che vuole. E noi stiamo lì, perché io non sono mai andato a Malpensa. Guarda. Anzi, sono andato a Malpensa quando andavo in Sud America, perché o andavo a Malpensa o andavo a Fiumicino e tutti i voli partivano da lì. Però partivo alla mattina, partivo alle 3 del pomeriggio e l'aereo era a mezzanotte la sera. Beh, insomma, è quasi entusiasmante questa uscita in un'audizione ufficiale, cioè non è che l'ha detto così en passant per strada oppure in attesa di prendere un aereo in sala d'aspetto, un'audizione in Parlamento. Andiamo sempre a parlare di Alitalia, restiamo su Alitalia, perché ieri a Ballarò ho sentito il commissario di Alitalia, che è Fantozzi, come sapete benissimo, dare brutte notizie, bruttissime, lo sentirete un po' dal tono della voce e anche da una leggera ironia, magari si poteva cogliere meglio in diretta, in televisione, che non in radio, ma insomma lo capite lo stesso. Brutta notizia a chi? Agli azionisti di Alitalia e ai soldi che potrebbero riavere, sentite. Beh, chi aveva azioni all'Italia forse sarà in parte indennizzato, secondo la misura che determinerà il Ministero dell'Economia. Forse sarà in parte indennizzato. Beh, deve essere ancora deciso con quel provvedimento che utilizza i cosiddetti conti correnti che dormono. I conti correnti che dormono, i famosi conti dormienti, dove però pare che ancora non ci sia nulla per gli azionisti dell'Italia. Ancora Fantozzi sui debiti dell'Alitalia, com'è la procedura, in cosa consisterà, insomma alla fine dice Fantozzi, se lei mi chiede, rivolto a Giovanni Floris, se tutti saranno accontentati, la risposta è chiaramente no. Devo vendere e fare più soldi possibili, devo vendere 46 aerei, devo vendere il cargo, devo vendere le società che fanno manutenzione pesante, Atitech e AMS, devo vendere qualche immobile, alcuni di pregio e molti piccoli, in giro per, erano le sedi dell'Alitalia in giro per il mondo, devo vendere qualche partecipazione sociale, mettere tutto insieme e distribuire i soldi ai miei numerosi creditori. Gli altri, quelli che non riesce a distribuire, chi se ne fa carico? Quelli che non riesco a distribuire evidentemente non se ne farà carico nessuno. Io spero di distribuire. Lei mi sta chiedendo se io distribuisco o rimborso tutto a tutti. Questo sicuramente no. Allora, ci sono novità dell'ultima ora sulla vicenda Englaro, perché la clinica La Quiete comunica vogliamo attuare la sentenza, mentre un assessore della regione Friuli Venezia Giulia, che come sapete è a guida centrodestra, anche se il presidente Tondo ha avuto sempre una posizione di apertura nei confronti della famiglia Englaro, l'assessore, uno degli assessori di punta, credo l'assessore ai servizi sociali e alla sanità, diciamo così, della regione Friuli Venezia Giulia, dice ci sono problemi nell'attuare questa sentenza, non ci sono le condizioni, così ho letto prima anche qui in un'ultima ora lanciata la Sky TG24. Naturalmente vi terremo informati della vicenda, che però ha assunto una connotazione piuttosto strana. Alcuni organi di stampa chiedono, e lo stesso Beppino Englaro, chiedono il silenzio stampa. Ipocrisia oppure no? Dopo che la stampa, l'informazione, la mediatizzazione della vicenda è stata fondamentale. Beppino Englaro stesso l'11 gennaio è andato per pubblicizzare il suo libro, naturalmente, per ottenere il risultato che vuole per quello che riguarda la figlia Ruana Englaro alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. Qui con noi Beppino Englaro. Englaro, buonasera, benvenuto. Grazie infinite a lei. In realtà il libro è uscito a ottobre, edito da Rizzoli, e Luana, La libertà e la vita. Forse insomma, il sottotitolo avrebbe potuto persino essere La libertà e la vita, ma chi lo sa. Mi sembra che questo sia il riassunto in realtà del... Esattamente, vero? Proprio, è proprio così, sì. E ne parleremo con lei. Perché per Luana vita era libertà. e c'è da registrare in due giorni, per carità, c'è la campagna elettorale e Berlusconi fa campagna elettorale in Sardegna, è normale, non si capiscono le critiche da questo punto di vista. Il Presidente del Consiglio, anche il capo, diciamo, del Partito del Popolo Libertà, fa campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna, non c'è niente di particolarmente bizzarro, però certo i toni sono molto forti e le spiegazioni possono essere tante. Forse i sondaggi sono negativi per il centrodestra, forse il personaggio è forte, ingombrante per Berlusconi, che è Renato Soru, l'attuale presidente uscente della regione Sardegna. In ogni caso leggo un commento su Riformista molto azzeccato: secondo me non si dovrebbe mai dare del fallito a qualcuno, come ha fatto Berlusconi nei confronti di Soru in due giorni ieri. Sentite. Perché non bisogna più votare Soru? Perché è un incantatore di serpenti, è una persona che è fallita in tutto quello che ha fatto. È fallito come imprenditore, è fallito come politico, è fallito come governatore della Sardegna. Come imprenditore ha messo su un'azienda che è riuscita a inanellare 11 anni di perdite continuative. E giù su Soru imprenditore, ed è tornato su questa vicenda del Soru fallito anche oggi. Non riesco a capire come ancora si possa presentare ai sardi questo signore dopo la prova negativa che ha dato in 5 anni di governo, perché è fallito come governo della Sardegna, è fallito come politico, è fallito come imprenditore e si sa vendere veramente un incantatore di serpenti. Credo che proprio se i sardi dovessero decidere per Soru commetterebbero un errore veramente imperdonabile. Beh, insomma, i sardi hanno votato già Soru una volta, magari lo rivoteranno, per cui non è che possono essere meno preparati o meno coscienti, se poi, o meno consapevoli del loro destino se verrà riconfermato Soru. 800 24 00 24, dove andiamo a parare in conclusione prima di sentire i vostri interventi? Sui nanetti, sentiamoli. Ma siete dei nanetti! Nanetto di oggi, il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero, che naturalmente dice: Veltroni con questa legge del 4% di sbarramento ci vuole uccidere. È evidente che il Partito Democratico prova a risolvere la sua crisi di consensi cercando di distruggere la sinistra. Distruggere e uccidere la sinistra, questa è la parola d'ordine, a sinistra come a destra. E però c'è qualcuno che si ribella di fronte a questa rivolta, la ribellione nei confronti della rivolta dei piccoli partiti. E uno dei piccoli, anche lui, perché è Oliviero Di Liberto, il capo segretario, adesso non so se sia ancora segretario, del Partito dei Comunisti Italiani, una delle sigle innumerevoli dell'estrema sinistra italiana, che dice: beh, a me non piacciono questi piagnistei, sentite. Il mio giudizio sulla legge è molto pesante, perché è l'accordo dei due più grandi per eliminare per via amministrativa e non politica i più piccoli. E aggiungo che è un escamotage di Veltroni, che è, come noto, in grande difficoltà per eliminare la sinistra anche dal Parlamento europeo. Ma perché detto in grande... questo, a me le proteste dei piccolini, con questa logica, chiedo scusa per l'espressione, un po' da sfigati, sinceramente a me non piacciono. C'è questa legge, io sono per accettare la sfida. C'è uno sbarramento al 4%, noi Rifondazione Comunista superiamo senza problemi questo sbarramento, andiamo in Europa e continuiamo ad esercitare il nostro ruolo. Beh, la posizione un po' da sfigati non è male. A proposito di comunisti, non c'è nessun legame, solo un legame così di filo, di narrazione. La nostra campagna prosegue, per carità, su Battisti, che è ancora in Brasile, ancora stiamo aspettando la decisione della Corte Suprema. Nome? Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato 4 persone? Falso. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale. Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma. Diamo il via alle telefonate con Giovanni da Bergamo. Pronto? Sì, buonasera, dica. Salve, io volevo intervenire in merito alla vicenda di Eluana. Siccome ho sentito i vostri commenti, niente, prego, volevo dire un attimino la mia. Secondo me ci vorrebbe, il silenzio non è giusto, però ci vorrebbe un po' di rispetto, quello sì. In che senso? A chi si rivolge lei? Chi è che non ha rispetto? Rispetto nel senso che quando dicono questa ragazza la fanno morire, la stanno facendo morire, bisognerebbe mettersi nei panni di un padre che prende una decisione che probabilmente è la decisione più difficile della sua vita per vedere un attimino, e poi un padre che ha seguito questa ragazza non un anno, 17 anni. Per cui la sua idea è che se qualcuno sostiene che la stanno uccidendo, esatto, che si tratta di un omicidio, significa non avere rispetto del padre. Sì. Non la penso così io, Giovanni, mi perdoni, per carità. Vabbè, si tratta di idee, naturalmente. Assolutamente, infatti. Ognuno può dire la sua. Siamo qui per questo. Io penso invece che la vicenda è stata talmente resa pubblica e talmente mediatizzata che ci possono essere tutte le opinioni, e hanno cittadinanza anche le opinioni di chi sostiene che Luana Englaro vive, è viva, e che la procedura che si sta attuando la porta alla morte. Poi lo si può chiamare in mille modi, ma è legittima questa posizione. Si può non condividerla, naturalmente, ma non è una posizione che offende il padre. Secondo me no. Se il padre Beppino Englaro ha deciso di rendere questa vicenda per ottenere un risultato, una vicenda importante, una vicenda giudiziaria, una vicenda che investe l'opinione pubblica, a quel punto poi le opinioni sono le più varie e tutte quante più o meno hanno una loro legittimità, no? Non sto dicendo che queste opinioni non hanno la loro legittimità, però secondo me offendono. Esatto, offendono la famiglia. Ho capito. Claro, perché al di là di una certa soglia nessuno sa cosa ci può essere. D'accordo, la ringrazio Giovanni. Andiamo a Bologna da Giorgio, buonasera. Buonasera signor Cruzzani. Da Bologna, così, circa una decina di giorni che finalmente sono riuscito a trovare una radio bella, una bella radio. La ringrazio. Comunque, di cosa ci voleva parlare Giorgio? Io volevo parlare che lei ha dato la notizia di quei due negozianti che sono stati aggrediti. No? Sì. Con le tappe, sono stati aggrediti e gli hanno dato 9 anni perché si no, sono. No, no, attenzione, non gli hanno dato 9 anni, è la richiesta da parte del PM di Milano, che sì, si chiama Laura Barbaini, nei confronti di Giovanni Petrali, chiede 9 anni e rotti. 9 anni, questi qui, io mi posso immaginare, cioè questi qui nel terrore sono stati aggrediti, è stata picchiata la moglie, armati, ha rischiato la pelle, cioè tu vedi che in quel momento è una cosa istintiva, cioè, hanno questi personaggi, questa signora, questo giudice, ha il coraggio di dare 9 anni, perché mi sembra veramente una cosa pazzesca questa, cioè, uno ti dovrei pur difendere, se ti stanno per ammazzare, cosa devi fare? Sì, naturalmente Giorgio, se lei la mette in questo modo è scontato. Però secondo il giudice non fu legittima difesa e nemmeno eccesso colposo in legittima difesa per un difetto di percezione della situazione. Fu addirittura omicidio volontario, vendetta personale, perché i colpi sono stati sparati fuori, i rapinatori, perché uno rimase ferito e l'altro ucciso, sono stati inseguiti, ci sono state delle frasi dette dal signor Petrali, naturalmente secondo la ricostruzione del magistrato, a questa persona una volta per terra, ha alzato le mani, ha insultato i rapinatori, ha fatto un gesto furioso in segno di soddisfazione e di vittoria, eccetera eccetera, a 100 metri di distanza dal bar. Naturalmente la difesa contesta questa ricostruzione, parla di altre cose. Fosse avvenuto tutto all'interno della tabaccheria non ci sarebbe discussione, come lei dice Giorgio. Però purtroppo quando ti trovi in quelle situazioni io penso che sia proprio istintivo quello di insomma, hanno picchiato la moglie, l'hanno massacrata la moglie, era avuto già delle altre rapine, cioè, e questo io dico io, come può dove vivono questi giudici? No, ma io capisco la sua considerazione e capisco naturalmente lo stupore di fronte al fatto che una persona che in fondo si è difesa e può avere ecceduto nella difesa viene accusata per omicidio volontario. La ringrazio. Andiamo a Monza da Carlo. Buonasera. Oh, buonasera. Io mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore di prima. Il problema è che se uno va a fare rapine sa che ci deve essere un rischio del mestiere. Eh sì, su questo non c'è dubbio. Il rischio del mestiere è che l'altro ti può fare secco. Cioè, quindi io voglio dire, nel momento in cui è stato dato il porto d'armi a quel signore che ha la tabaccheria, si poteva pensare che lui prima o poi l'avrebbe usata per legittima difesa o per eccesso di legittima difesa. Quindi la mia domanda è: quando uno si pone fuori dalla legge, come può poi chiedere tutela da quella legge da cui lui si è messo fuori? Quindi io ho massima solidarietà per quel signore. Chi è che ha chiesto tutela? Però mi perdoni, chi è che ha chiesto tutela dalla legge? È lo Stato che agisce in maniera... È il pubblico ministero che paga le tasse, sì, che fa gli interessi dell'accusa. Quindi quel signore lì, mi spiace, ha avuto il rischio massimo del mestiere, cioè l'ha un patto secco. Sì. E c'è questo signore che pone una richiesta per conto di questo signore, magari non era la stessa, e chiede 9 anni per questo tabaccaio. Però Carlo, guardi, io capisco il suo ragionamento. Lei dice: nel mestiere di rapinatore deve essere messo in conto il fatto che si può morire, che qualcuno può rispondere alla rapina, può rispondermi sparando e io posso morire. Sì, nel senso, scusa. Però a quel punto eliminiamo tutte le leggi sulla legittima difesa, sul eccesso colposo, illegittima difesa e tutte queste cose qui, che non è che ce le siamo inventate noi, che fanno parte più o meno del diritto in Occidente. Togliamo queste cose qui e diciamo che quando c'è una rapina è permessa qualsiasi cosa. Facciamola così, non so, può essere una soluzione, Carlo. Lei che dice? No, lei l'ha fatto troppo semplicistica. Cioè, il problema è che questo casino l'ha causato un rapinatore. Cioè, quel signore lì stava lì nel suo negozio, dietro al banco, a vendere non so cosa. Ma non è che andava a sparare alla gente, invece arriva uno e si presenta con la pistola. Deve mettere il rischio che gli possono sparare. Scusi, la rapina quanto ammontava? 1.300 euro. Quel signore lì poteva decidere di andare a lavorare, non so, alle poste, e quella somma la guadagnava in un mese. Lui ha deciso di guadagnarla in 5 minuti, però sa... Anche nelle borse, voi che siete nel mondo della finanza lo sapete, più è alto il guadagno, più alto è il rischio. O sbaglio? No, ma Carlo, sul rischio del rapinatore, infatti è morto il rapinatore, per cui però la giustizia si mette in moto automaticamente in questi casi e riscontra se c'è stato un eccesso oppure no. Allora, ripeto, la sua soluzione credo sia eliminare questa questione dell'eccesso. Durante una rapina, se il rapinatore muore, non si dovrebbe nemmeno indagare. Questa è la sua... No, lei l'ha fatto troppo semplicisti, come lo dico. Ancora? Allora, indaghiamo, perché sì, magari io invito uno a casa mia, gli metto in mano una pistola, gli sparo e lo faccio secco. Sì. Ma non è questo il punto. Il punto è che qua da noi c'è sempre un eccesso di garantismo. Anche i 3 violentatori che hanno detto di ce li hanno picchiati in caserma. Mm. Vabbè, e anche se fosse? Beh, insomma... Qui siamo, passiamo lei... questo è un altro piano, Carlo, non c'entra niente con la disquisizione, cioè, agito dentro il bar, fuori dal bar, legittima difesa o no. Lei sta dicendo: anche se gli stupratori fossero stati picchiati dai carabinieri in caserma, va tutto bene. Io le dico, le forze dell'ordine io le vedo come il mio esercito che ci difende. Alcune cose possono capitare, sa? No, guardi Carlo, che alcune cose possono capitare, siamo d'accordo tutti, e che alcune cose capitino lo sappiamo, ma di qui a dire va bene, autorizziamo a picchiare anche i più feroci malviventi in carcere, in caserma, mi sembra che ce ne corra. Io la ringrazio, Carlo, ed è la tesi per esempio del... La voglio fare risentire, non ha parlato di questo il parroco di Guidonia, Don Stefani, non in questo intervento che vi faremo ascoltare, dove invece appoggia la decisione di Rita Bernardini, deputato radicale, di andare a trovare gli stupratori in carcere, ma in un altro intervento, nella lettera mandata alla Bernardini, dice, insomma, io sono certo che questi stupratori sono stati picchiati nella caserma di Guidonia. Sentirete adesso Don Stefani fare un applauso alla Bernardini, sentite. Visitare dei carcerati, visitare dei delinquenti è un obbligo di coscienza. Non ce lo siamo inventati noi cristiani, ma il Signore Gesù ci ha invitati precisamente a fare quest'opera di carità, dicendo: ero carcerato e mi avete visitato. Quindi io non capisco bene questo scandalo che ha suscitato questa visita dell'onorevole a dei delinquenti. Alessandro ci chiama da Ancona, buonasera. Buonasera Cruciani, anzi grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Dica. Ascolti, il mio intervento è molto semplice, tra l'altro anche molto breve, e mi piacerebbe magari sentire anche da lei cosa le pensa. Ecco, io l'intervento mio era praticamente alla presidenza della Commissione RAI, e volevo dire che secondo me il dottor Zavoli, magari ecco, 86 anni, io lo vedo come una persona che magari forse dovrebbe godersi un po' più la pensione, magari stare un po' più con i nipoti, e quindi magari ecco, come dire, non che debba essere messo da parte perché è una persona magari ecco un po' avanti con l'età, ma sicuramente la vedo molto come un discorso di lasciare un po' di spazio a gente che magari può prendere magari ecco ruoli di questo genere essendo anche molto più giovane. E lui magari ecco forse lo vedo un tantino un po' più con i nipoti, visto che magari ecco alla sera si fa tardi, gli si deve discutere, si deve magari combattere anche per ottenere dei risultati, magari così, decisioni, magari di una certa cosa, di una certa diciamo anche importanza, la vedo diciamo un po' difficile per una persona ecco di questa età. Questa era un attimo. Sì, Alessandro, io sono sempre un po' refrattario a parlare di età quando si parla di ruoli, perché in fondo non è che avere qualcuno più giovane significa avere qualcuno più bravo, diciamo. Tutt'altro in alcuni casi, fare la tara semplicemente sull'età oppure limitarsi al giovanilismo non mi pare una cosa efficace. Però certamente in Italia da questo punto di vista siamo specializzati. Ho ricordato prima il Zavoli del 1960, l'apertura delle Olimpiadi, ma possiamo sentire uno splendido Zavoli nel 66, l'inondazione di Firenze. A quest'ora erano arrivate le prime immagini dell'alluvione da ogni parte d'Italia. Da Firenze bloccata uscirono solo quella sera queste fotografie dell'operatore Barneschi scattate da un terrazzo della nostra sede. Firenze, nel disastro che coinvolgeva mezza Italia, era un'isola. Fu possibile ma solo alle 20:40 un collegamento via radio. Da uno studio televisivo di Piazza Santa Maria Maggiore ci rispose Marcello Giannini. Ecco, l'impressione è quella di una città veramente in pericolo. Era Zavoli sull'inondazione di Firenze 1966, oggi presidente della commissione di vigilanza della RAI dopo l'interminabile vicenda Villari. Alle 19:46 Bruno Berardi, buonasera Berardi. Buonasera anche ai radioascoltatori. Presidente dell'associazione Domus Civitas, associazione delle vittime del terrorismo e della mafia, nostro ospite ogni tanto quando si parla di queste cose, dunque è sempre gradita la sua presenza in questa trasmissione. Berardi, come lei sa, il punto è che oggi lei ha visto, ha incontrato Carla Sarkozy, incredibile dictu, dopo tanto penare è riuscito ad arrivare all'Eliseo, o sbaglio? Certo. Ci racconti un po', lei si trova ancora a Parigi? Io sono ancora a Parigi, sì. Sono alle 3, mi sono presentato davanti all'Eliseo, sono stato accompagnato fra le varie sale che c'erano, tutta una trafila interminabile, sono arrivato alla, diciamo, davanti alla porta della Premier Dame e sono stato accolto veramente in maniera molto calorosa. Senta Berardi, un attimo solo, prima di raccontarci questo incontro, perché magari noi dall'Italia non siamo ben informati su queste cose, i francesi magari sanno tutto. Cioè la Premier Dame, la moglie del Presidente della Repubblica, ha un suo ufficio dentro l'Eliseo? Sì, sì, c'è un ufficio molto bello, proprio a livello, arazzi, tutte, un ufficio spettacolare, cioè... No, ho capito, un ufficio molto bello, un suo ufficio. Quanto ci avete messo a organizzare questo incontro? Perché all'inizio sembrava che non vi volesse ricevere. No, guardi, a me mi ha telefonato circa quando c'è stato questo caos del un suo presunto intervento per quanto riguarda sia la liberazione della Petrella, sì, sia la fuga di Battisti, di, sì, di Battisti in Brasile. Allora lei ha specificato per telefono, perché sinceramente quando lei mi ha detto sono Carla Bruni per telefono, io ironicamente ho detto io sono Giulio Cesare, poi l'hanno riportato anche sui giornali francesi. Ma quando è successo questo? Questa telefonata quando c'è stata? C'è stata circa durante proprio la fuga di Battista, adesso non so quando sarà, mi pare nel mese di novembre. Allora lei invece poi ha insistito, dice no, sono proprio Carla Bruni, non è uno scherzo, e mi ha diciamo ripetuto più volte che lei non c'entra niente con la faccenda del Battisti e si è intervenuta per quanto riguarda la Petrella perché era un caso umano, pietoso, che stava morendo, e allora ha cercato di, diciamo, stimolare il presidente francese perché intervenisse a non accettare l'estradizione. Che l'Italia dunque queste cose gliele aveva già anticipate per telefono? Ecco, poi durante la telefonata, che già all'epoca era durata una mezz'oretta, mi ha invitato all'Eliseo e io ho accettato volentieri, diciamo, naturalmente, ci credo, insomma, sì, in ogni caso rifiutare un invito di Carla Bruni mi sembra comunque sbagliato. L'invito me l'ha fatto lei. Certo. Credevo che la cosa accadeva, cioè che poi non mi chiamavano per e niente. E invece? Come dicevo, invece poi l'Eliseo mi ha chiamato qualche giorno fa dicendo che era stato fissato l'appuntamento per le 3 di oggi, che è il 4 febbraio. Allora mi descriva un po' la situazione, cioè come l'ha accolta Carla Bruni, in che modo, com'era, com'è dal vivo, a vederla così? Una bella da... donna, accidente, se, insomma, a parte che anche non è altezzosa, anzi è proprio amichevole, cioè sembrava di stare a parlare, non so, con una mia amica, ecco così. Però Berardi, dalle cose che ho letto sulle agenzie, anche lei mi sembra sia stato colpito dalla bellezza e dal fascino di Carla Bruni, perché prima di questo incontro ne ha dette di tutti i colori, ha detto no, Carla Bruni è intervenuta, uno scandalo, Battisti, eccetera. Invece adesso si è ricreduto completamente. No, io mi sono ricreduto solo per quanto riguarda la faccenda che lei è intervenuta, diciamo, sul lato umano per la Petrella. Beh, questo lo ha ammesso. Tutto il resto io ho sottolineato, perché visto che lei rigetta questa faccenda che non è intervenuta su Battisti, sì, io ho detto, allora, visto che voi siete a favore delle vittime del terrorismo, volete fare qualcosa in più, mi ha promesso che ci riceverà tutti questa volta, sì, le vittime del terrorismo, in maniera in pompa magna, un po' più avanti organizzeremo anche questa cosa qua, però io ho chiesto ufficialmente al presidente francese, che poi me l'ha passato per telefono, perché lei... Ah, per cui oggi ha parlato pure con Sarkozy lei? Certo, perché mentre parlavamo Sarkozy ha chiamato la sua consorte, sì, e lei ha detto che stava parlando con me, ha detto glielo passo, te lo passo, e lui ha ribadito questa vicinanza del popolo francese alle vittime del terrorismo italiano, e io ho ribadito che se sul suolo francese ci sono ancora, perché ci sono molti ex terroristi che sono fuggiti, visto che lui si è aperto così tanto a favore delle vittime, che ce li faccia ritornare indietro. E lui come ha risposto lui? E lui ha risposto ben volentieri, perché è un discorso che va chiuso definitivamente, e chi ha sbagliato, anche se è scappato in Francia, deve essere estradato e riportato in Italia a pagare quello che non hanno pagato. Allora, lei mi sta dicendo che in una conversazione telefonica con lei oggi pomeriggio nello studio della Premier Dam le ha passato Sarkozy, che magari non so dove era, magari nella stanza accanto, adesso non so dove, nello stesso palazzo. No, era impegnato, però me l'ha passato per telefono. Benissimo, in questa conversazione Sarkozy le ha assicurato che le procedure di estradizione avviate degli ex terroristi... Certo, degli ex terroristi che sono rimasti ancora lì, che in Francia devono ancora ritornare nel nostro paese a scontare quello che devono scontare, farà di tutto per estradarli e rimandarceli indietro, perché così almeno si chiude questo annoso problema delle fughe facili dall'Italia. Questo mi sembra importante. Senta, ma la conversazione com'è avvenuta? No, vorrei assicurarmi che lei abbia capito bene, perché Sarkozy... No, io ho capito bene, perché il francese, insomma, non sono, diciamo, un francofono, però lo capisco e lo parlo pure. Cioè. Perfetto, allora lei, Sarkozy, nonostante la conversazione avvenisse in francese, immagino, il presidente, lei come rispondeva? In italiano, come rispondeva? No, io rispondevo in francese, mi sono scusato se qualche frase in francese non era proprio il top. Sì. Però diciamo il senso lo ha capito, cioè... Perfetto, no, ma era di questo che volevo assicurarmi, per carità, Berardi. Poi come sai, in queste cose con la diplomazia una parola in più, una parola in meno è sempre, certo, è sempre, cioè, complicato. Ma dopo quello che io mi sono portato delle gigantografie addirittura delle vittime di Via Fani, e ho sottolineato a Carla Bruni, che queste erano persone che sono state ammazzate, e nel comando faceva parte anche la signora Petrella, gli ho sottolineato. Poi c'è anche questo aneddoto che mio padre nel 73 era il capo dell'ufficio antiterrorismo, si chiamava così all'epoca, e avvisò la famiglia Bruni tedeschi, sì, che i brigatisti stavano per andare a fargli, diciamo, gli stavano per fare la festa. Ma la Bruni, ecco, lo sapeva, perché. Cara Bruni lo sapeva? Non lo sapeva ed è rimasta veramente scossa su questo. E c'era anche il consigliere del presidente Sarkozy che ascoltava questa, sì, conversazione, e lei difatti, insomma, si ricordava che lei, quando, insomma, era più ragazza, di questo c'era questo allarme terrorismo, e che la famiglia, esatto, Bruni fu allertata da suo padre, ricordiamo ucciso dalle Brigate Rosse. Senta Berardi, certo. Un'ultima cosa le voglio chiedere: lei si è davvero convinto dopo questa conversazione, oppure lo dice così anche per diplomazia, che Sarkozy Bruni, la coppia terribile francese, non abbia avuto nessuna influenza sulla fuga, magari? Guardi, o addirittura sulla decisione brasiliana? Diciamo, io almeno come me ne ha parlato, e sembrava che parlava sinceramente, che con questa faccenda poi si è alterata con i giornalisti, perché dava la colpa ai giornalisti che hanno montato questo caso. Dice, ma io sinceramente le giuro, mi ha giurato più di una volta, che con questa faccenda di Battisti non c'entra proprio nulla, niente, assolutamente. E sui servizi segreti francesi non le ha detto nulla, sul ruolo dei servizi segreti francesi non vi siete addentrati in questa cosa? Ha detto che lui proprio non c'entra niente, anche, insomma, sa, a livello diplomatico. Certo. Berardi, io la ringrazio moltissimo. Buon ritorno in Italia. Mi sembra che la cosa abbia avuto qualche frutto, se è vero che Sarkozy ha promesso l'estradizione per quelli che, naturalmente, per coloro per i quali è stata richiesta l'estradizione, che sono una decina. La ringrazio. Andiamo a Napoli da Silvano. Sì, buonasera, grazie per avermi richiamato. Solo la chiamo comunicazione di servizio. È un piacere partecipare alla vostra trasmissione, ma i tempi di attesa sono un po' lunghetti. 20 minuti col telefonino all'orecchio, ho l'orecchio viola. Giusto, se si potesse accorciare, ovviamente non vuole essere una critica. No, ma Silvano, lei ha ragione perfettamente, accettiamo questa sua critica, dica pure. Perfetto, allora, io stasera la seguo da anni, proprio non sono d'accordo sul discorso della Englaro, perché credo che il silenzio sia obbligatorio. Sia obbligatorio perché la sua trasmissione stasera mi sembrava un po' come il giornalista offeso dal fatto che Beppino Englaro, avendovi sfruttato nel tempo, mi lasci passare il tempo, sfruttato per la situazione, adesso il finale di questa storia non ve lo voglia far vivere. Il finale di questa storia è che tra 29 giorni questa ragazza passerà a miglior vita, e a meno che non vogliamo fare il Grande Fratello, gli montiamo una telecamera ai piedi e così tutto il mondo potrà vedere che fine farà sta ragazza. Il silenzio credo sia il rispetto per il dolore di questo padre. Mi avrebbe fatto piacere che come giornalisti ci fosse arrivati da soli, e non dico che da soli avesse fatto un passo indietro, perché questa notizia questa storia va avanti da tantissimo tempo, e credo che il signor Englaro non avesse alternative, ha usato i mass media e i giornalisti per riuscire ad ottenere quello che è il più grande atto d'amore che forse un genitore può avere nei confronti del suo figlio. Perché parliamo di questo, e lui sta prendendo una decisione per un figlio che non può prenderla, ed è la decisione forse più dolorosa, anzi sicuramente la più dolorosa che un genitore possa avere. Quindi in questo caso ritengo che stare in silenzio fino alla conclusione di questa storia, poi le coscienze, lei potrà fare tutte le trasmissioni che vuole, ne parleranno i giornali, i telegiornali, ne possiamo fare quello che vogliamo di questa storia, ognuno ne ragionerà. Mi farebbe piacere che più trasmissioni però casomai comincino a ragionare su che cosa fare domani, perché il fatto apre una crisi nella coscienza di tutti noi. Ma è proprio perché, Silvano, è proprio perché apre una crisi nella coscienza di tutti noi che è impossibile non parlarne, anche se poi noi in questa sede ne abbiamo parlato pochissimo, per la verità. Ci sono altre trasmissioni, altri approfondimenti più degni. Però io non sono d'accordo con quello che dice lei, perché innanzitutto nessuno vuole trasformare questa vicenda in un reality. Nessuno si aspetta e nessuno vuole invitare Beppino Englaro a parlare 24 ore su 24, però invocare il silenzio stampa, una sorta di moratoria di notizie o di informazioni su questa vicenda, questo sì mi sembra davvero bizzarro. Bene, alle 21 minuto, questa sera iniziamo con la 7 che, come sapete, ha scelto da ieri di non parlare della vicenda Englaro. Bonus da 1000 euro e 3 anni di bollo gratis a chi rottama un'auto con almeno 10 anni. Questa è una delle misure in arrivo in un decreto del governo. In vista anche incentivi per mobili e elettrodomestici. Berlusconi, 40 miliardi già stanziati potranno diventare 80. Gioacchino Genchi indagato a Roma per abuso d'ufficio e violazione della privacy. Nel mirino della procura c'è l'archivio dei tabulati telefonici dell'ex consulente delle PM De Magistris nel processo Why Not e Poseidon. Arresti domiciliari per il re delle cliniche private del Lazio, Giampaolo Angelucci, è accusato di aver truffato 170 milioni alla sanità pubblica. Chiesta l'autorizzazione a procedere anche contro il padre Antonio, deputato delle PDL. Loro replicano misure abnormi. Prima medaglia italiana ai mondiali francesi di sci in Val d'Isère, l'altoatesino Peter Phil conquista l'argento nel Super G dietro allo svizzero Kusch. Quarto l'altro azzurro Christoph Innorhofer. TG5, titoli. Incentivi per auto, moto, mobili ed elettrodomestici. Pronto il pacchetto di aiuti del governo. Berlusconi, contro la crisi abbiamo fatto molto e continueremo a farlo. Il Vaticano chiede al vescovo lefebvriano Williamson di ritrattare le frasi negazioniste sulla Shoah. Solo così, dice la Santa Sede, potrà rientrare nella Chiesa. Indagato per abuso d'ufficio e violazione della privacy, l'ex consulente del PM De Magistris, Gioacchino Genchi. Nel suo archivio i dati telefonici di 5 milioni e mezzo di persone. Svolta la commissione di vigilanza RAI, Sergio Zavoli eletto presidente. Non c'è tempo da perdere, dice, e per fortuna si è creato un positivo clima di collaborazione. Decreto sicurezza sì al Senato all'inasprimento del carcere duro per i mafiosi. Agli stupratori non potranno più essere concessi gli arresti domiciliari. Verso lo stop ai seni rifatti per le minorenni, l'iniziativa annunciata dal sottosegretario alla salute Martini. È un intervento con rischi e controindicazioni. Dunque, il seno alle minorenni tra i titoli del TG5, sentiamo se ci punta anche il TG1, certo fa impressione come titolo, sentiamo. Berlusconi annuncia aiuti per auto, moto ed elettrodomestici, in arrivo bonus ecologici e sconti anche per chi cambia i mobili. Giustizia, dialogo PDL-PD, mano dura contro mafie e stupri, intercettazioni, l'Italia dei Valori si appella al Quirinale, Zavoli presidente della Vigilanza. La casa di riposo di Udine non è idonea, dice la regione. La clinica, andiamo avanti, il TG1 a Lecco tra le suore di Eluana. Il Vaticano al prelato tradizionalista Williamson, smetta di negare l'esistenza dei lager o non sarà più vescovo cattolico. Indiano bruciato a Nettuno, carcere per il sedicenne, gli altri due lo accusano, possibile un confronto tra i tre ragazzi. Protesi al seno vietate alle minorenni, un progetto del governo per ridurre i rischi degli interventi di chirurgia estetica. Eh sì, l'ultimo titolo del TG1 anche qui sul governo che vuole impedire alle minorenni di rifarsi il seno. Andiamo allora a completare con Silvano da Napoli sul silenzio oppure no sulla vicenda Englaro. Secondo lei ci vuole il silenzio a questo punto? Comunque bisogna rispettare questa volontà di Beppino Englaro. Sì, perché arriva in un momento preciso, Cruciani, non è che arriva in un momento in cui la partita ormai è giocata, c'è una sentenza e quindi siamo alla fine. Dopo, ripeto, ne possiamo parlare quanto ne vogliamo, ma in questo momento specifico siamo alla conclusione, quindi credo che un attimino, un passo indietro tutti quanti lo si debba fare, perché è una situazione agghiacciante dal punto di vista, ripeto, delle coscienze. Qualche trasmissione che ho sentito, c'era Ferrara sempre da voi che qualche mattina fa sì. Faceva la trasmissione anche lui, però ripeto... No, questa mattina anche. Anche stamattina l'ho sentita, però ecco, ripeto, penso che tutti quanti abbiamo fatto, chi parlandone tra sé e sì, chi al bar, chi voi o i telegiornali o quant'altro abbiamo fatto quello sì, che... Sì, per volontà di Beppino Englaro. Sì, però guardi, anche la sua trasmissione all'inizio lei ha mandato due volte il servizio che Beppino Englaro è andato da Fazio a presentare il libro. Sì, ma non c'è niente di male. No, ma non vorrei che il suo signore Englaro poi passasse per uno che ci sta speculando. Allora, l'intento non era quello. Perché poi, no, io la percezione che ho avuto e la invito a... Ed è una percezione sbagliata, però per io... per l'amor di Dio, però sa, se si dice e questo fino a ieri ha fatto in modo che noi giornalisti, la televisione, eccetera, eccetera, su sua sollecitazione, questo signore o se la risolveva da solo la cosa e poi... Silvano, io ho sempre detto, senza naturalmente voler togliere nulla al grande rispetto che si deve avere o comunque al rispetto per il dolore e per le sensazioni che può provare un padre e soprattutto grande rispetto per la battaglia di Beppino Englaro, questa è la premessa, non sarebbe nemmeno il caso di ripeterla, però la ripeto. Detto questo, lui chiede una cosa, il dibattito sulla vicenda della figlia è diventato per sua volontà un dibattito pubblico, non si può chiedere adesso che non si discuta, soprattutto quando siamo alla fine, questo è quello che dico io. Guardi, io ripeto, anche che ho sentito una cosa all'inizio che poi mi ha dato fastidio, il fatto che questa cosa ormai non appartiene più solo ad Englaro, ma è un fatto pubblico. Ma assolutamente, ma sì, così. Sono d'accordo con lei che ormai, ma forse è riuscito a fare un qualcosa che se domani uscirà una legge che ci mette tutti d'accordo, sarà stato grazie anche a... Ma certamente, può darsi che sia così, però sì. A questo punto perché bisogna seguire l'indicazione di una moratoria del discorso pubblico su Eluana Englaro? Discorso su Eluana Englaro, sulla vita, sulla morte, sul testamento biologico, cosa bisogna fare in questi casi, è diventato inevitabilmente un discorso pubblico di cui si parla ovunque, nei bar, nelle università, nelle radio, nei giornali, è impossibile fermarlo ed è ipocrita affermarlo e dirlo. Oggi l'Unità, il quotidiano, come sapete, del Partito Democratico, uno dei quotidiani del Partito Democratico, ha un titolo, Silenzio, dopodiché dentro ci sono 8 pagine su questa vicenda, 8 pagine, le pare coerente questo, Silvano? Scusi, anche io sono in contraddizione, perché se dico silenzio poi faccio una telefonata parlando dell'argomento. Certo, è vero. Ci ho centrato allora, però vede, il discorso è questo qui, io dico decontestualizzare la cosa diventa in questo momento sbagliato, credo che sia arrivato in un momento particolare il silenzio voluto dalla famiglia, perché siamo di fronte alla svolta definitiva di questa storia, quindi non è qua, dice silenzio stampa per sempre, qua di questa storia se ne parlerà penso per tantissimo tempo, quindi al momento, cioè in questo preciso istante, visto che la situazione si sta, ripeto, mandando per quella che è una sentenza, quindi non ne possiamo farci più niente in questa storia, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però in questo preciso momento probabilmente, ma vedo io per esempio, non sapevo che la 7 ha deciso di non parlarne, quindi non sono solo a dire questa cosa, probabilmente c'è anche qualcuno che la pensa come me. Io ritengo che in questo momento forse, dato, ripeto, la situazione, un attimo di silenzio, aspettare che sta cosa si risolva, francamente sapere come... Sì, però mi sembra. Silvano, la ringrazio di questa telefonata lunga ma molto interessante, francamente credo che chi vuole il silenzio in questi casi è perché ha le idee molto chiare, o comunque se non ha le idee molto chiare pensa che sia giusta la soluzione che vuole Beppino Englaro. Questo è inevitabile, cioè chi adesso dice ci vuole silenzio su questa storia è perché la pensa in un certo modo, va bene, è legittimo, però è così, non nascondiamoci dietro le ipocrisie, non dico che lei è ipocrita, mi ha capito. Un ascoltatore mi scrive: tra una tetta e l'altra il TG5 e il TG1 scordano di informarci sull'arresto di Angelucci e coinvolgimento del padre in un paese di pecoroni, i giornalisti fanno beh. Marco da Roma, che evidentemente ha già scritto la sentenza su Angelucci, almeno mi sembra di capire, certamente nei titoli del TG5 e del TG1 forse ci poteva stare un titoletto su una vicenda comunque importante che riguarda la sanità, l'imprenditoria e se vogliamo anche l'informazione. Giustamente un ascoltatore da Modena, Gianni, mi segnala in più, Beppino Englaro ha aggiunto parlo dopo, forse in realtà non ha detto parlo dopo, se è il caso parlerò dopo. Berlusconi impazza dappertutto, Sky TG24 sta mandando un intervento da mattino 5, durato una ventina di minuti circa questa mattina, evidentemente insomma Berlusconi deve temere una sconfitta in Sardegna, credo, per intervenire in questo modo. Qualche giorno abbiamo sentito un'intervista prima al telegiornale di Studio Aperto, adesso mattino 5, eccetera eccetera. Dove andiamo? Andiamo, dov'è la mia lista? Eccola qui, Ilie da Torino, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io sono rumeno, volevo rispondere un attimo al signor deputato, non mi ricordo, mi ha detto lei che ha detto che tutti Stifoni, i rumeni sono stuprattori. Stifoni. Sì, allora... Allora, senta, io ho Stifone, magari lo chiamiamo, magari lo chiamiamo adesso, questo Stifone, così ci facciamo spiegare un po'. Mi piacerebbe, perché vorrei invitarlo a cena a casa mia una sera quando ha tempo libero. Sì, perché io gli spiego. Che cosa vuole fare? Vuole cenare per parlarci o è una sottile ironia? No, no, li vorrei far cambiare idea dei rumeni. Questo va bene. Perché, guardi, io li racconto brevemente la mia storia in Italia. Io sono 6 anni che sono in Italia. In Italia io ho conosciuto mia moglie, in Italia io mi sono sposato, in Italia ho comprato la mia casa, i miei figli sono in Italia, io e mia moglie in Italia abbiamo aperto una nostra attività, insomma una bella storia di integrazione. Non interessa a nessuno, perché non fa notizia. No, a me interessa moltissimo. Lei che mestiere fa, Ilie? Io faccio il camionista e insieme a mia moglie gestiamo anche un negozio di alimentari, tutti i prodotti tipici rumeni, in provincia di Torino. Sua moglie è rumena o italiana? No, mia moglie è rumena. È rumena. Però abbiamo diverse conoscenze di coppie miste. Rumeni, no, ma non c'è nessun italiani. Non c'è nessun però che le deve aggiungere. È legittimo avere una moglie rumena, per carità. No, ma per carità, non è quello il punto. Cioè, lei dice siamo integrati in Italia, non abbiamo nessun problema, facciamo dei lavori assolutamente normali, gestiamo appunto un negozio, lei fa il camionista, abbiamo figli che vanno a scuola tranquillamente in Italia o no? Ma certamente è così, solo che purtroppo, perché la realtà è quella, ci si trovano quei delinquenti là che combinano quello che combinano e purtroppo veniamo messi nella stessa pentola tutti quanti, ma non è così, guardi, perché io gli do l'esempio della città di Chivasso, che è in provincia di Torino, che solo all'anagrafe sono 3.000+ rumeni che abitano a Chivasso e dintorni, e volendo avere l'email di questo signore qua, io posso fare una campagna presso il mio negozio dove tutti quanti li mandiamo l'email con la professione che ognuno fa. Gliela faccio avere, Ilie, perché ripeto la frase che ha pronunciato Pier Giorgio Stifoni, senatore della Lega Nord. Dopo che oggi a Napoli sono stati arrestati 2 rumeni per aver tentato uno stupro ai danni di una donna di 45 anni. La frase è questa: se un extraterrestre scendesse sulla Terra e mi chiedesse qual è la specializzazione dei rumeni, gli risponderei lo stupro. Ora, la specializzazione di Ilie è un'altra, quella di guidare i camion, mi sembra, no Ilie? Sì, anche fare macellaio. Vabbè. Dove si trova in questo momento con il camion? Presso l'autogrill di Novara. Senta, resti in comunicazione con noi se la cosa non le provoca particolari disturbi, perché magari se riusciamo a metterci in contatto con Stifoni le facciamo scambiare qualche parola. Lei ammette, Ilie, che però come è successo in passato per gli albanesi, l'arrivo numerosissimo dei rumeni in Italia negli ultimi anni con l'apertura delle frontiere abbia creato qualche problema di criminalità? Sono dei dati ormai che circolano, dei dati ufficiali o no? Ma quello è vero, però guardi, mi creda, perché io le dico la realtà di Torino. Quello è vero, io sono il primo che condanna quello che i rumeni fanno. Però guardi, cioè mi creda, la polizia non si implica, perché vi faccio l'esempio di Porta Palazzo a Torino, dove tu vai lì la domenica mattina e trovi tutto e di più là, dai telefonini rubati a tutto quanto. Cioè la polizia non guarda neanche, passa e fa finta di nulla. Sì, però non è che adesso lei deve fare paragoni tra la criminalità di altri stranieri e il tasso di criminalità dei rumeni. C'è un problema, non c'è dubbio, spero che verrà risolto in fretta. Una volta erano gli albanesi, oggi sono i rumeni, possiamo semplificare in questo modo. Andiamo a Cagliari, Alessandra, buonasera. Ilie resta sempre con noi, è l'autista rumeno nei dintorni di Novara, il quale non è specializzato in stupri, come dice il senatore della Lega Nord Stifoni, bensì in altre cose assolutamente degne, naturalmente, come la guida di camion e anche in macelleria, anche un negozio insieme alla moglie, perfettamente integrato in Italia. Alessandra, buonasera. Eccomi, ciao, buonasera. Dica. Prima ho avuto la fortuna di sentire i commenti di Berlusconi contro Soru e mi si è accaponata la pelle. Addirittura. Perché, dai raga, cioè non esiste. Cioè, ma lui, che cos'è che le ha, che cos'è cosa, che l'ha colpita? Che prima non è sardo, lui non sa assolutamente come sia Soru quello che ha fatto, perché se lo sapesse si vergognerebbe assai di dire tutto quello che ha detto. Tutto può essere tanto che un fallito quell'uomo. Quell'uomo quando è arrivato qui ha avuto in eredità tante cose mostruose, tipo un debito incredibile lasciato dal precedente governo di destra. Ti dico solo che il precedente governatore della Sardegna, non voglio dire il nome ma lo sanno tutti, è stato condannato a rimborsare di tasca 470 milioni di euro. Volete sapere chi c'era assessore al bilancio? 470 mila euro forse, 470 milioni, scusami, 470 milioni di euro milioni. Mi sembra... No, mila, come? Insomma, parecchi soldi. Ecco, comunque, ma guardi, io queste cose però non le conosco, non lo so, non so fare un paragone tra l'amministrazione precedente e quella di Soru. Qui si ragionava, mi scusi un attimo, Alessandra. Non è un fallito. Cioè... No, ma vabbè, d'accordo, ma io non sto dicendo che lei ha torto, per carità. Ripeto, io ho sempre molto rispetto per il giudizio degli elettori, è stato eletto con una larga maggioranza, Soru, credo che abbia amministrato in maniera degna la Sardegna, non so farmi un'idea perché non vivo in Sardegna e capisco anche la foga della battaglia politica. Si ragionava semplicemente sul fatto di dare del fallito a qualcuno in quel modo in cui lo ha dato Berlusconi, perché poi la parola fallimento è anche, ha a che fare un po' con la persona, e io credo appunto che Soru sia tutto tranne che un fallito da questo punto di vista. E poi comunque la parola fallito non mi piace come espressione, mi ricorda un po', non so, l'insulto che si può fare a qualcuno che magari nella vita e nel lavoro ha avuto meno fortuna di te, sei un fallito. Ripeto, non è il caso e non si può fare un paragone tra Berlusconi e Soru, altrimenti non si potrebbe fare un paragone con nessuno tra Berlusconi e un'altra persona. Però mi sembra, ecco, una di quelle cose, di quegli argomenti, di quelle parole che non si dovrebbero utilizzare in campagna elettorale, in una competizione certamente che può essere anche molto dura, ma che non ha bisogno di queste cadute, secondo me, o no? Sì, appunto, ma dico, oltre alla parola fallito, ne ha usate di tante peggiori, ecco, perché basta leggere i giornali qui da quando è iniziata la campagna elettorale. Quale sarebbe la parola peggiore di fallito? Secondo me non c'è da questo punto di vista, a meno che non abbia detto delinquente, ma non l'ha detto, naturalmente. No, forse no, in effetti, no. Però ha dato dei poveri deficienti a noi, e questo mi sa che... No, deficienti anche qui, lei è una sua interpretazione, naturalmente, non bisogna essere troppo partigiani da questo punto di vista. Lei ha detto, è incomprensibile che i sardi abbiano dato... Così Berlusconi ha detto, è incomprensibile, inconcepibile, adesso bisogna utilizzare bene le parole, che abbiano dato consenso a Soru. E vabbè, se ne faccia una ragione però Berlusconi, nel fatto che i sardi hanno votato una volta Soru e forse lo rivoteranno magari, non lo so. Lei che dice, Alessandra, le sue previsioni quali sono? Previsioni è tosta quest'anno, lo ammetto. È tosta per lei che è una supporter, diciamo, di Soru, no? Io sono la supporter della sinistra in generale. Della sinistra in generale, e in particolare di Soru, che è tutto tranne che di sinistra, diciamo. Comunque, insomma, in questo caso è il candidato del Partito Democratico, soprattutto, sì. No? Sì. Lei fa il tifo per Soru e dice che è tosta, cioè? È tosta, sì, perché... Prima Berlusconi parlava di incantatori di serpenti, ecco, lui è il re degli incantatori di serpenti. Vabbè, ma a parte Berlusconi, lei pensa che davvero in Sardegna ci sia un effetto Berlusconi in Sardegna? Sì, anche perché l'altro candidato, Capellacci, non lo conosce nessuno. Lui non ha mai parlato, Soru viene qui ogni fine settimana a fare le sue belle riunioni nelle varie zone. Capellacci non parla mai, alcuni pensano che Berlusconi sia ventriloquo, perché ce l'ha sempre a fianco. Addirittura oggi sarebbe dovuto essere un confronto in TV tra Soru e Capellacci, ma Capellacci non ha voluto perché non poteva essere presente Berlusconi, è stato rimandato all'11. Lui da solo non fa nulla, non lo conosce nessuno sa chi sia quest'uomo, o meglio, è famoso. Perché era proprio l'assessore al bilancio della scorsa legislatura, ecco. Però era anonimo, cioè non se ne parlava di quest'uomo, è uscito fuori tutto questo adesso, ecco. Noi sappiamo anche perché lui è candidato, lo sanno tutti. E perché è candidato? Lei dice, io lo so per quello che lei sta per dire, perché è, diciamo, la longa manus dei costruttori, di quelli scontenti dalle disposizioni e dalle leggi di Soru sulle edilizie e sulle coste in Sardegna. Berlusconi è uno di quelli scontenti, perché la legge salvacoste gli ha impedito di continuare a distruggere la costa del nord. Vabbè, adesso, perché la Certosa è un castello, accidenti. Vabbè, Alessandra, ormai Berlusconi, non è che Berlusconi ha bisogno di una nuova giunta in Sardegna per allargarsi di più. Ecco, ha scontentato parecchi costruttori, ma in realtà il babbo di Capellacci è uno dei commercialisti di Soru. Conosco personalmente per questo. Vabbè, allora, perché adesso si è venuto in mente di candidare Capellacci, penso. Non sono state fatte primarie. Non ho capito. Allora, sei il commercialista di Soru, allora. Il padre. Il padre. Lui ha proposto lui Capellacci perché lo conosce personalmente. Non sono state fatte le primarie da noi. E questo è un male, perché noi avremmo anche voluto scegliere, probabilmente anche non solo a sinistra, ma anche Popolo di Destra probabilmente avrebbe voluto scegliere il suo candidato. Vabbè, qui la discussione si fa molto sarda. La ringrazio Alessandra moltissimo. Grazie a voi, buona serata. Allora, intanto il governo è stato battuto per 3 volte nell'aula del Senato sul disegno di legge sulla sicurezza. La maggioranza è andata sotto in 3 votazioni per le quali era stato chiesto il voto segreto. Bisogna vedere naturalmente di che si tratta, vedremo più avanti. L'abbiamo cercato Stifoni? No, perché appunto al Senato è senatore, si sta votando sulla sicurezza e chissà come ha votato Stifoni. Per cui Ilie, dove si trova lei in questo momento? Sì, sto sempre verso Torino, sto viaggiando, sono a Bianca. Sta tornando a casa? Sì, sto tornando a casa dai miei figli e mia moglie. Non avrà soddisfazione questa sera, magari domani se continua ad ascoltarci, perché il senatore Stifoni nisba, perché è in aula a votare. La ringrazio molto. Grazie a lei. Buona grazie serata. A lei. 20 e 25 800 24 0024 sempre per chiamarci. Il senatore Stifoni non risponde al telefono, sta votando in aula. Andiamo a Comoda, Daniele. Buonasera Cruciani. Io volevo tornare sul discorso Englaro perché ritengo appunto bizzarro, come lei ha detto poco fa, la richiesta di tacere proprio in questo momento in cui invece bisognerebbe parlare, nel senso che credo che paradossalmente il messaggio mediatico più forte lo stiano mandando proprio quelli che adesso stanno zitti, e quindi paradossalmente dietro quel silenzio c'è una fortissima presa di posizione. E chi sta parlando invece sta parlando come ormai lo si fa da diversi mesi. Ma comunque continuano a parlare tutti, quelli diciamo favorevoli all'applicazione della sentenza, alla conclusione della vicenda in un certo modo, e quelli invece che hanno più o meno le posizioni del Vaticano con diverse sfumature. Stanno continuando a parlare tutti, come è normale che sia quando si è avviato un dibattito di così ampia portata. Vorrei aggiungere che io, dicendo questo, non sono affatto contrario, non sono sulla posizione cattolica per intenderci, anzi io per essere franco sarei addirittura per l'introduzione dell'eutanasia attiva in Italia, però questa è una mia posizione personale. Ritengo che uno degli errori più grossi che si stanno commettendo dalla parte di chi vorrebbe accompagnare questa ragazza fuori da quello stato, ritengo che ci sia un tentativo continuo di edulcorare una situazione drammatica, dicendo cose incomplete. Cioè, cosa ci vorrebbe dire? Signori, qui c'è un corpo vivo, è un corpo vivo, ma non c'è più una persona. Quindi è inutile continuare a dire corpo vivo, corpo morto, corpo vivo, corpo morto. Cioè lei dice anche da parte di chi vuole interrompere l'idratazione e l'alimentazione, non c'è una presa di coscienza che si tratta in realtà di quello che dice lei. Ma è chiaro. Ma io ho ascoltato anche una conferenza di Carlo Alberto De Fanti, dove lui faceva un discorso molto articolato, molto lungo, anche molto difficile, sulle soglie di degenerazione dell'apparato appunto nervoso. Poi io non mi occupo di queste cose, quindi non inutile che perda tempo su questo. E di fatto si sta parlando di un corpo che è vivo e nessuno lo nega, neanche De Fanti lo nega. Sì. Lo ha negato soltanto l'anestesista oggi, ma credo ieri, sì. No, ma io ho capito perfettamente quello che dice lei, Daniele, e sono anche d'accordo, devo dire la verità. Cioè, al di là di come la si possa pensare, credo che ci voglia un po' di franchezza da questo punto di vista e ammettere quello che si sta facendo, quello che si sta compiendo. Lei tranquillamente lo fa e lo farebbe. Bene, 20:33, andiamo a sentire TG2. Caso Eluana, il governo rivela per l'assessore del Friuli Venezia Giulia la clinica non ha i requisiti per attuare il decreto, la struttura replica, vogliamo andare avanti. Berlusconi, è pronto il pacchetto di aiuti, le decisioni venerdì al Consiglio dei Ministri, tra le misure bonus per auto e frigoriferi e incentivi anche per l'acquisto di mobili. Sergio Zavoli, presidente della nuova commissione di vigilanza, 34 voti a favore, 4 schede bianche, ora subito la scelta dei vertici RAI, dichiara dopo l'elezione. Il Vaticano chiede al vescovo Lefebvriano di abiurare la negazione della Shoah. Il Papa non sapeva delle sue posizioni quando ha revocato la scomunica ai tradizionalisti. La vicenda dell'indiano bruciato a Nettuno, deciso il carcere per il sedicenne, per il GIP è socialmente pericoloso e il Senato vota il no ai domiciliari per chi è accusato di stupro. Bene, bene, alle 20.34 andiamo a sentire Francesco da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Ma io l'ho chiamato un po' prima per l'intervento, riguardava il tabaccaio che è stato condannato a 9 anni. Sì, non è stato condannato, non è stato condannato, è bene sempre precisarlo, c'è una richiesta del PM, non c'è una condanna, attenzione. Sì, certo. Insomma, la differenza è consistente. Sì, no. Senz'altro, adesso l'avevo sentito un po' così, intanto che stavo in macchina, adesso sono a casa. Richiesta, no, una richiesta da parte del PM di 9 anni, certo, nei confronti del tabaccaio, che sì, ha colpito a morte il suo rapinatore. Certo, certo. Cosa ci voleva dire? Sono queste cose che da parte dei magistrati lasciano sempre un attimo sconcertati, anche perché poi l'opinione pubblica è abbastanza anche influenzata negativamente dal comportamento di determinati magistrati su queste vicende. Lei può immaginare che l'opinione pubblica, per la stragrande maggioranza, io compreso, sono per una solidarietà, anche perché sappiamo abbastanza di questa vicenda, cosa è successo qui a Milano in Piazzale Baracca, dove abitiamo qua a 500 metri, e sono cose che colpiscono abbastanza. Francesco, dunque lei è sconcertato dal fatto che un magistrato abbia chiesto per omicidio volontario 9 anni al tabaccaio di Milano, si chiama Petrali, a 74 anni, Giovanni Petrali. 100 persone, 95 la pensano come me, insomma, no? Beh, io credo di sì, però questo non significa nulla. Beh, non significa nulla fino a un certo punto, insomma, no? Perché io penso che l'opinione pubblica qualche cosa possa anche contare, no? Perché l'opinione di un magistrato è una testa, diciamo così, pur con tutte le sue funzioni, per l'amor di Dio, eccetera, però è un pochettino difficile da giustificare, anche perché sono cose che hanno un impatto sociale, hanno un impatto sull'opinione pubblica, hanno un impatto proprio su determinati comportamenti anche di chi purtroppo sceglie di uscire dalla società civile, insomma, no? Ho capito Francesco, la ringrazio. Allora, quali sono gli emendamenti sui quali il governo è stato abbattuto? Uno è abbastanza clamoroso, perché gli stranieri irregolari non potranno essere trattenuti nei centri di identificazione per un periodo superiore ai 60 giorni. L'aula di Palazzo Madama ha approvato l'emendamento dell'opposizione che abroga la norma della maggioranza che portava a 18 mesi il periodo massimo di permanenza. Beh, insomma, uno dei pilastri della politica dell'immigrazione del governo Berlusconi, fortissimamente voluta dalla Lega, questa norma è stata respinta con voto segreto. Bisogna vedere a questo punto chi ha tradito al Senato questa norma, questa disposizione che è stata respinta. Ripeto, i giorni restano 60. I stranieri irregolari non potranno essere trattenuti nei centri di identificazione per un periodo superiore ai 60 giorni. Si opponeva la sinistra ed è stato approvato l'emendamento dell'opposizione. Poi resta da spiegare perché la sinistra vuole che al massimo si resti per 60 giorni, ma questo è un altro discorso. Andiamo a sentire Domenico dalla provincia di Milano. Sì, buonasera. Dica. Io volevo parlare per quanto riguarda il discorso delle azioni ex azione all'Italia, ormai ex. Volevo insieme a lei vedere se io ricordavo bene il fatto che quando si iniziò a parlare della cordata italiana contro Air France, si diceva che in caso di fallimento di Alitalia, qualcuno, nella fattispecie Berlusconi, garantiva che gli azionisti non avrebbero perso un centesimo. Ricordo bene o sono... Cioè, insieme a lei volevo un attimino sapere se era una cosa che ricordavo bene o meno. Sì, c'è stata una trasmissione, non mi ricordo se era una trasmissione in cui sia Berlusconi che Tremonti, credo una conferenza stampa ufficiale in cui Berlusconi e Tremonti hanno detto gli azionisti non ci rimetteranno una lira, credo lo ha ricordato nei giorni scorsi il professor Boeri in qualche suo articolo, adesso dobbiamo anche ripescare l'audio. Sì, è così comunque, Domenico, è più così, o meno è così. In realtà adesso si sta dicendo che non si sa bene se i piccoli azionisti vedranno. Beh, ci sono dei dubbi, bisogna vedere appunto questo fondo messo a disposizione di Tremonti come si riempirà e quando si riempirà. Certo, non ci sono sicurezze da questo punto di vista. Non c'è, cioè, da una parte, cioè, il punto era solo questo. Un anno fa si parlava via Air France. Non vi preoccupate, i soldi li avrete lo stesso. Un anno dopo i soldi che si sono, cioè lo dico io sono, no, ma questo non ha niente a che fare con Air France, però non ha niente a che fare, no, con la cosa Air France, perché non mettiamo in mezzo altre cose. Sì, sì, ma però si diceva cordata l'Italia, cordata italiana, in caso di fallimento i piccoli azionisti non perderanno un centesimo. Adesso non si sa bene se e quando, niente. Volevo solo bisogna ricordarlo, diciamo che forse sono state fatte troppe promesse da questo punto di vista, o qualcuno è stato incauto nel promettere che sicuramente gli azionisti non ci avrebbero rimesso. La ringrazio di questa telefonata alle 20.39. Andiamo a sentire per qualche minuto, lo ringrazio, Antonio Petrali, che è figlio di Giovanni Petrali, il tabaccaio di 74 anni, per il quale oggi un pubblico ministero di Milano ha chiesto una pena molto pesante, oltre 9 anni per omicidio volontario. Buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. La ringrazio di essere con noi. La sua sensazione oggi in aula qual era? Me la descriva. Ma mi sembrava di vivere un brutto incubo, perché ho ascoltato la requisitoria e onestamente non pensavo che si arrivasse a tanto, perché naturalmente io non voglio fare un processo ora perché lo si fa nell'aula, ma sicuramente è un momento di giudizio, ma il giudizio deve scaturire da una verità. La verità non è emersa dalla requisitoria. Cioè, che cos'è che voi mettete in questione? La ricostruzione fatta, i colpi sparati fuori, l'omicidio volontario, le parole che secondo la ricostruzione del PM suo padre avrebbe pronunciato nei confronti di alcuni dei rapinatori, che cos'è che mettete in dubbio? Cos'è che contestate fortemente? Ma contestiamo fortemente anche come la stampa ha riportato il tutto. Noi per 6 anni abbiamo avuto un comportamento abbastanza tranquillo. Oggi mi sento di dire che è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, inteso nel senso, io non voglio fare un discorso di parte, ripeto, perché parlo solo con gli atti processuali, e c'è una cosa certa, che è ed è agli atti del processo, la testimonianza, l'interrogatorio reso da uno dei rapinatori, nel quale, ripeto testo, ho visto la vetrina scoppiarmi in faccia e un bruciore allo stomaco. Questo Andrea Solaro che è stato ferito. Questo è agli atti, quindi non è una perizia o sì, no, da delle parole nostre. No, certo, da questo punto di vista lei sa benissimo che il PM sostiene addirittura, secondo altre testimonianze, che ci sono stati spari anche a 100 metri di distanza dal bar. Questo non lo nego, però che si venga a dire che sono stati colpiti fuori quando c'è stata una perizia non di parte, sempre agli atti, di 3 esperti massimi italiani di balistica e sì, eccetera eccetera, dove dicono colpiti sì dietro, ma il primo colpo frontale che ha frantumato la vetrina. Voglio dire, vabbè, ma questo fa parte della strategia difensiva. Voi sostenete che il colpo mortale non sia avvenuto a 100 metri di distanza, ma non lo diciamo noi, non è una strategia, cioè non lo diciamo noi, fortunatamente lo dicono i periti. Sì, sì, certo, i periti, naturalmente altri periti del tribunale, quindi non periti di parte, quindi capisce che senta le frasi che oggi diverse agenzie e diversi giornali riportano che avrebbe pronunciato suo padre, adesso non ricordo bene le circostanze, sono corretto? Contestate anche questo, spero che moriate, questa volta ho colpito giusto, oppure sono cose ricostruite attraverso cosa ha detto mio padre, non lo so perché non ero presente al momento, quindi sì. Allora lasciamo perdere questo aspetto. L'amarezza che lei ha, oltre al fatto naturalmente che è una richiesta molto pesante e al fatto che suo padre potrebbe passare degli anni in carcere, anche se ha 74 anni, innanzitutto come sta suo padre in questo momento? Beh, siccome manca una settimana, quindi insomma la tensione comincia a salire, ovviamente, perché se l'aspettava? Se devo essere sincero, sincero, sì, dato, diciamo, tutte le, da come si è svolto il processo, ci aspettavamo che si potesse arrivare a questo. Senta, ha qualcosa da rimproverarsi? Oppure, secondo lei, l'espressione usata dal giudice per farsi è fatto giustizia da sé è un'espressione sbagliata? Oppure suo padre ha qualcosa da rimproverarsi in quello che è accaduto? Direi questo, siccome è stato riportato testualmente che il comportamento non è da stato di diritto, lo stato di diritto vorrebbe anche che si prendesse in, diciamo così, in visione tutto il dibattimento processuale e non solo pezzi qua e là, perché ripeto, quando vi è un testimone, cioè il rapinatore, che al GUP, GIP, adesso non ricordo come si chiami tecnicamente, ha reso questa testimonianza a suo sfavore, quindi non a vantaggio, tant'è vero che negli interrogatori successivi, chissà perché, ho visto la vetrina scoppiarmi in faccia e un bruciore allo stomaco, si è spostato di 4 metri, cioè sulla soglia. Ho capito, Antonio, io la ringrazio, signor Petrali, naturalmente noi seguiremo questa vicenda e qui non è un giudizio ancora, è una richiesta, naturalmente poi ci sono i giudici che devono valutare, come dice lei, tutto l'incartamento e non solo le richieste del pubblico ministero. Con qualche secondo di ritardo rimandiamo a domani Paolo da Reggio Emilia, Pasquale da Bologna, Sergio da Milano, ma volevamo davvero ascoltare la voce, la testimonianza di Antonio Petrali. Ci sentiamo domani 18:30.